Il sabato del villaggio. Terza ora del sabato del villaggio, è il momento di RadioTube. RadioTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera, bentornati a RadioTube. Maledetta primavera, è proprio primavera adesso, Fa terza ora siamo qua, terza ora. Come sono andate le prime due? Bene. Bella, una bella puntata. Purtroppo, abbiamo parlato tanto di Made in Italy. Poi a un certo punto alla terra. Made in Italy? Sì, abbiamo parlato molto di Made in Italy, di cose belle fatte in Italia. Che bello, sì, che sì, bello. Tante cose purtroppo belle. Purtroppo la terza ora. L'imperdibile puntuale arriva Daniele, ecco, Bellasio. Eccoci qua. Renditi utili, dacci un po' di coordinate. Allora, faccio il bravo presentatore. Et di Bellasio, et Marta Cagnola. Ho detto prima a me, non bravo presentatore ma non tanto gentiluomo. Sì. Cancelletto RadioTube, cancelletto ISDV. Questa settimana sono risorti in due, politicamente e artisticamente. Ah, ok. Allora, per la prima volta da 2 o 3 anni. Sì, ho paura di quello. Quando fa quegli occhi lì che voi non vedete. Per la prima volta da 2 o 3 anni Gianni Cooperlo ha bucato alla grande il video e il muro dell'informazione. Sì. E Crozza ha fatto ridere. Le due cose nella stessa settimana. Prime assolute. Ogni volta che a Daniele Bellasio piace Crozza, perché allora intanto in non gli piace perché spesso piace a me. Ogni volta dice la prima volta che mi fa piacere. Esatto, quasi per la tesi arrenditi di Marta. No, stavolta veramente. No, l'hanno scritto sui social, tanti hanno detto una prima assoluta, Cooperlo fa notizie e Crozza fa ridere. Due cose messe assieme. Allora li mettiamo insieme, sentiamo come Crozza ha fatto Cooperlo. Sì, e come Cooperlo era Cooperlo. Cooperlo era Cooperlo, mostriamo alla radio. Poi ieri alla direzione del PD, Giovanni, è successo l'inimmaginabile. Cooperlo ha fatto un discorso che sembrava, non so, un incrocio tra Mandela, Togliatti e Batman. No, aspetta, peccato per la R moscia di Tremonti. E comunque Cooperlo, ieri lei ha dimostrato al mondo che la R è l'unica cosa moscia che ha. Posso dire che lei mi sembra anche più bello? Mi è diventato il Gary Cooperlo della minoranza. Gary Cooperlo è bellissimo, ma anche il mix tra Mandela, Togliatti e Batman. A parte che Cooperlo è sempre bello, non è diventato. Cooperlo è un bellone. A parte che, no, adesso per dire, no, grande io stima per Cooperlo. Io mi ricordo quel confronto, quello delle primarie, che è elegante. No, ma poi bello. Lui è un finissimo intellettuale. Sì. Chiaramente c'ha di fronte appunto il Batman della comunicazione, quello lì. Certo, quell'altro. E quindi, però, però appunto ha fatto. Crozza si è rianimato sì, e sì, alla grande è partito. Ha fatto molto ridere. Ma la scorsa settimana qualcuno si è lamentato perché ha detto non parlate della Boschi e della Guidi. Gravissimo, non parliamo delle inchieste giudiziarie. Una trasmissione che si occupa di video e di televisione. Ah, grave! Ma perché non parliamo di inchieste giudiziarie? Noi che ci occupiamo di televisione e di video. Possiamo non parlare della Guidi, da donna parliamo te lo della dico. Boschi. Perché? Allora, perché parliamo la della un po' Boschi. Parliamo della Boschi, poi ne parliamo. Sì, perché mi sento un po' sguattera del Guatemala. Anche tu, no? Sì, ma no. Mi fai sentire una sguattera del Guatemala. No, da tu mia. Ci scherzi, ma è uno dei livelli più bassi, secondo no, me, della stampa italiana di tutti i tempi. Allora, intercettazioni, vabbè. Però lasciateli litigare in pace. Un'ampia pagina nera del giornalismo italiano. Esatto. Ma queste cose che proprio non c'entrano nulla con niente. Soprattutto il povero Guatemala, ecco. Esatto, peraltro. Ma, brutta settimana è per il Centro America. Perché? Guatemala, Panama. Brava, ma guarda te, te l'ha sempre parata. Che ti piace a te Latino America? Ma noi parliamo non della Guidi ma della Boschi. Ah, cosa ha combinato questa settimana, Maria Non lo Elena? So, però io leggo nella scaletta che tu mi hai preparato. Non è vero. Scritto Cooperlo Crozza, poi Boschi. No, la Boschi è tosta. È questo che vuoi mandare in onda? Sì, perché la Boschi è tosta. Però non glielo dice, non glielo dico io, non glielo dici tu, ma glielo dice... Chi gliel'ha detto? Brunone Vespa. Ah, anche lui questa perché settimana. Perché lo ha intervistato, sì, dobbiamo parlare tanto di Vespa questa settimana. E mi sa che torneremo a parlarne. Ha intervistato la Boschi e nelle domande così a un certo punto ha buttato lì una cosa scomoda, era una critica o un complimento? Diciamo che no, insomma, è stato preso un po' come un elogio. Freccero ha detto, non mi preoccupo tanto di interviste di Reina, ma che ha detto che la Boschi è tosta. Come vabbè, l'ha allora detto? Sentiamo come l'ha detto. È un genere letterario ormai. Possiamo mettere degli appuntamenti fissi, tipo il mercoledì sera c'è la Champions, il giovedì c'è la mozione di sfiducia in Parlamento, perché ormai mi sembra che siano concentrati solo su quello le opposizioni. Lo sai che lei è piuttosto di Renzi? No, impossibile. Grazie. Renzi è piuttosto di tutti. Renzi è il più tosto di ragazzi, ma cos'è? Ragazzi. Ma che siparietto è questa? No, è pravenuta bene, Se e devo dire che la Boschi, secondo me, in una nuova vita così, volesse cambiare mestiere, potrebbe far radio. Radio? Sì, perché cinema, televisione? No, ma proprio una bella voce. Io invece la vedo, diciamo, lanciata verso altra. Tosti e tosti, vabbè, comunque. Ecco. Invece Grillo, sì. Perché si è visto anche Grillo in televisione. Sì. Era televisione? No, era Repubblica TV, cos'era? Non me lo ricordo dove è finito Grillo. Adesso studiamo, guardiamo Corriere Christian TV. Goldoni era con Corriere lo sguardo TV. Appanicato. Era Corriere TV. Ogni volta che Grillo ha uno spettacolo, diciamo la verità, si rivede. Ma tu stai insinuando? Vabbè, cosa ha detto Grillo? Sto insinuando che ogni volta che ha uno spettacolo, casualmente ci sono anche le elezioni, casualmente lui una capatina nel mondo della comunicazione la fa. Per esempio, per dire che se non vincono le elezioni a Roma i 5 Stelle, che cosa succede? Non voglio saperlo, no? Sentiamo. Anzi, mostriamolo alla radio, sentiamo cosa ha detto. Se la Raggi non vince, mi do fuoco in piazza. Perché di nuovo io sono veramente, ma lasci perdere i movimenti, la politica, parlo da uomo normale, come non so se lei è un uomo normale, però da persona normale, io non capisco come una persona non voti una persona come la Raggi, non lo capisco. In effetti la Raggi va forte nei sondaggi, anche perché tre quarti del centrodestra. Hai fatto la rima? La Raggi va forte nei sondaggi. Vabbè, no, che hai fatto la rima. Ma che hai oggi? Che te sei presa? Sto aspettando gli ospiti. Abbiamo degli ospiti. Abbiamo degli ospiti questa puntata. Ma l'ultima cosa ci sta? Un saluto. Io ci sono rimasta un po' male perché ero molto legata a lui come personaggio. Perché era. Guarda, da interista devo dire che Cesare Maldini è nazionale. Sì, perché è legato a dei bellissimi. Mi ricordi, ma anche di un Milan che mi piaceva, erano degli anni belli. E secondo me sarebbe felice che lo ricordassimo anche con Teone Nazionale, che si è commosso tanto. E quindi ricordiamo Cesare Maldini con la sua deliziosa imitazione di Teo Teopoli. Alla sera andai a Casa Italia, parlavano di calcio, gol, non è gol, linea sulla linea, sono i soliti argomenti. A un certo momento Tosati dice: Teone, allora cosa ci hai preparato questa sera? Non ho preparato niente, vorrei solo leggere la formazione della nazionale italiana di calcio come la leggerebbe il CT Cesare Maldini. Loro non immaginavano, proprio non immaginavano nulla. Prego, sentiamo. Presi un fogliettino, guardai, Pagliuco! Il giornalista davanti mi dice: Maldini, Pagliuco, del Baggio, del Vielo, del Livio, del Pesotto, del Birindelli. Ad Elivio gli ho detto: stai largo in campo, vai largo, ma dove cazzo vai fuori dallo stadio? Radio Tube. E dopo questa carrellata su tutto quello che è successo questa settimana, che ci ha un po' fatto così sorridere, commuovere, indignare, sorprendere, così un po' di flash, andiamo a vedere cosa è successo una di nuovo. Una vera novità giornalistica, cioè un telegiornale fatto in un modo completamente nuovo. Intanto è più lungo, dura un'ora. Sì. E poi è un telegiornale che a me piace così raccontare con il conduttore che ti accompagna, il giornalista che ti accompagna nelle notizie, nella comprensione delle notizie. Allora, noi abbiamo preso i titoli di qualche giorno fa, di un paio di giorni fa, e iniziamo a sentire i titoli di questo nuovo TG. Bentornati al TG4 nella nuova versione di un'ora fatta apposta per capire meglio insieme il significato di quello che avviene in Italia e nel mondo. Il primo titolo riguarda l'ex ministro Guidi che per l'inchiesta Petroli oggi è stata messa sotto torchio dai magistrati che indagano a Potenza. Queste le immagini dell'uscita del ministro dopo il lungo interrogatorio in cui si è detta parte lesa, parte danneggiata. Ecco le carte, finalmente sono state portate dagli egiziani all'incontro di Roma, forse una svolta, punto interrogativo. Speriamo che non ci prendano in giro anche questa volta. Ore 18.55, Rete 4, questi erano i titoli di un paio di giorni fa del TG4, condotto da Alessandro Cecchi Paone. Buonasera. Buonasera. Eccomi qua, grazie dell'invito. Allora, grazie. Secondo me già da questi titoli si capisce un po' la vocazione di questo TG. Allora, un TG che vuole spiegare, come hai detto tu, portare, accompagnare lo spettatore anche a capire un po' le notizie. Qualcuno ha parlato di vocazione divulgativa. Ti rivedi, Alessandro? Didascalica? Meglio ancora divulgativa, perché effettivamente mi hanno chiamato dicendomi: senti Alessandro, tu lavori da 40 anni, perché ho cominciato alla RAI con un telegiornale per bambini in bianco e nero, quindi figurati. E hai fatto telegiornali di qua e di là, in particolare il più importante, il TG2, quando faceva 10 milioni di ascoltatori. Poi hai fatto una cosa che tutti ricordano, e per fortuna con grande favore, che è la macchina del tempo. Mi hanno detto: fai una specie di fusione fra queste tue due esperienze, facci un telegiornale divulgativo. Il motivo qual è? Che ovviamente è sempre tutto molto più complicato, sia in Italia che nel mondo, parole strane, luoghi lontani, personaggi nuovi. E allora ho fatto questa operazione, mi serviva un'ora di tempo perché ci vuole più tempo, e apparentemente funziona molto bene, perché innanzitutto il pubblico in solo una settimana ci ha dato un punto di share in più, che a quell'ora è tantissimo. E devo dire che anche tutti i critici hanno titolato dicendo: questa è una grande novità. Allora, anch'io da ragazza ho cominciato facendo delle news per bambini, ma sono finita conducendo con me. Sei con me, con sei finita affatto male, non sei finita affatto male. No, perché non mi conosci. No, esatto. Lei si lamenta del co-conduttore. Posso mischiare due curiosità in un'unica domanda? La prima è: intanto, che cosa si prova, dopo che hai fatto tantissime cose, a ritornare a condurre il telegiornale? La seconda: come trovi l'equilibrio tra il divulgativo e il non eccedere nel pedante, cioè nell'essere troppo, come dire, esagerare nel sottolineare la spiegazione? Ti rispondo subito alla seconda, che è più semplice, perché i 10 anni di macchina del tempo, di appuntamento con la storia, sono state una eccezionale palestra. Ecco, che cosa si prova a tornare al primo amore? Si rischia una grande delusione. Per fortuna in questo caso il primo amore è cresciuto bene, come dire, non è particolarmente invecchiato, ho ritrovato tantissimi colleghi con cui avevamo inaugurato i primi programmi, neanche telegiornali, i primi programmi informativi delle reti Fininvest Mediaset, certo. E quindi con il loro aiuto riesco a bilanciare la parte informativa, per cui siamo completi rispetto a quello che succede ogni giorno, e la parte divulgativa che mi sono portato appresso io. Inevitabilmente questa tua conduzione si porta dietro una forte dose di personalizzazione. Sì, è il TG di Cecchi Paone, rischia di essere il come, TG di Cecchi Paone. Come il TG di La 7, il TG di Mentana, e come il tuo illustre predecessore, che citiamo solo en passant prima che si arrabbi, Emilio Fede. Com'è questa cosa della personalizzazione del TG? Nel senso che immagino sia una cosa che possa gratificare molto un anchorman, però che appunto ha anche dei contro. Ha detto il tuo co-conduttore, scusate, uso questo termine che mi diverte molto, sì, perché l'avete usato, sì, voi, sì, sì, che, sì. È un rischio. In questo caso è un valore aggiunto voluto. Cioè, quando mi ha chiamato che Silvio Berlusconi e i dirigenti della rete e il direttore politico Giordano mi hanno proprio chiesto questo. Mi hanno detto: dobbiamo tornare alle elezioni americane. Poiché il numero dei telegiornali, se ci aggiungi le tre reti All News, internet, tutto il discorso radiofonico, non fanno più brand, come si dice in termini di marketing, cioè non sono più un elemento di affezione, e allora bisogna tornare, mi hanno detto, al TGD, per cui così come c'è stato quello di Fede, così come c'è quello di Mentana, il TG4 deve diventare il TG di Cecchi Paone. È una settimana in cui ci sono state un po' di polemiche attorno alla nostra professione. Per esempio, forse abbiamo il video, c'è stata un'intervista che ha fatto parlare moltissimo. L'abbiamo? La mandiamo? Ce l'abbiamo, la mostriamo? Così chiediamo anche un parere a Alessandro Cecchi Paone. Abbiamo un pezzettino di un'intervista che ha fatto molto discutere questa settimana. Che penso, quando le hai il nome di Falcone, no, hanno ammazzato Falcone. Stiamo tutti ammutoliti, cioè anche i ragazzi, perché eravamo ragazzini di 15 anni. Poi molto... lei tornò a casa, sì, perché tornarono, queste edizioni straordinarie continuarono per tutta la serata e vide tuo padre davanti. Sì, entrava a casa e c'era mio padre che guardava il telegiornale di edizione straordinaria. Le venne il sospetto che suo padre stesse dietro a quell'attentato? No, non mi venne mai il sospetto. Allora, Bruno Vespa, l'intervista al figlio di Totò Riina, le istituzioni, la politica, molte associazioni... hanno cercato di bloccarla fino a un certo punto, la RAI l'ha difesa e l'ha mandata in onda. È successo di tutto, in tanti hanno commentato a favore o contro. Poi se volete vi dico anche cosa ne penso io, ma voglio intanto sapere cosa ne ha pensato Alessandro Cecchi Paone. Beh, allora la RAI l'ha forse difesa, ma poi il presidente della RAI l'ha duramente criticata dopo, quindi come dire c'è una pluralità di voci piuttosto confusa, bisogna che alla fine ci sia un'indicazione definitiva. Ma perché insisto sulla RAI, dove appunto sono nato 40 anni fa, che è un'azienda che mi ha insegnato molto? Perché fin da quando ragazzino, quindicenne, facevo il telegiornale per i ragazzini su Rai 2 in bianco e nero, mi dicevano: guarda che tu lavori per il servizio pubblico ha delle responsabilità e qualunque parola e qualunque cosa tu dirai e farai sul servizio pubblico devi tener conto che hai una responsabilità. Ecco, io ho l'impressione che nelle ultime scelte di Bruno Vespa questa cosa non sia più tenuta in conto, perché è chiaro che è un grande scoop, è chiaro che è una cosa estremamente interessante, però mi sembra più un'operazione di audience. Voglio dire, io ricordo che Enzo Biagi ci incontrammo a New York perché lui doveva intervistare Tommaso Buscetta. Sì. Però una cosa è intervistare Tommaso Buscetta che dice: la mafia mi fa schifo, ho deciso di pentirmi, collaboro e vi do tutti gli elementi per cominciare a distruggerla. Una cosa è intervistare uno che dice: sono il figlio di Torrina e tutto sommato non mi dispiace. Quindi capite qual è la differenza. Il nostro lavoro ha sempre un significato e un peso, e anche nella scelta degli intervisti devi avere la capacità di dare un senso e di dare la tua lettura, sia nella scegliere di farlo o di non farlo, sia nel modo in cui lo fai. Io devo dire che a me la cosa che ha dato fastidio era che fosse concomitanza con l'uscita di un libro, insomma, come diciamo noi in brutto gergo giornalistico, la marchetta al libro del figlio di Riina, forse anche no, ecco, questa cosa qua. Però dico, anche all'epoca ci fu il libro di Biagi su Buscetta, però ripeto, lì si cominciò finalmente a documentare attraverso la voce di un ex padrino che la mafia si poteva battere, che la mafia poteva perdere. E invece sulla questione Guidi, le intercettazioni, TG4 ha fatto un servizio in cui parte delle intercettazioni c'erano, preceduto da un servizio che spiegava bene, proprio molto bene peraltro, chi era indagato, chi no, i ruoli, però le intercettazioni insomma ha dato abbastanza spazio. Come la vedi da questo punto di vista? Ma ci siamo posti il problema perché siamo sia io che il direttore Giordano, di cui io sono il vice, non amanti delle intercettazioni, perché sicuramente hanno molto inquinato e rischiano sempre di inquinare la vita politica, la vita istituzionale e quindi anche l'informazione. Però abbiamo deciso di usarle perché danno l'idea di un paese strano in cui ancora il familismo continua a avere un peso spaventoso a livello poi dei destini politici e economici del paese. Qui sostanzialmente c'erano delle azioni che secondo i magistrati venivano fatte nell'interesse pubblico, come dovrebbe fare un governo, sulla base di pressioni di un compagno, marito, padre del figlio, ogni giorno ha cambiato definizione. E quindi questa cosa purtroppo va documentata. Ho un'ultima domanda da farti, Alessandro. Voglio concludere con la frase con cui conclude la recensione del TG4 Antonio Di Pollina sulla Repubblica. Giusto. Già il fatto che un TG venga recensito da un critico Ciao TV è singolare. Dice: rimane il fatto che tra idee sparite, format secolari e talk bolliti, mettersi a giocare con un TG è forse una delle poche cose sbarazzine rimaste in TV. Tu che hai frequentato diversi generi, è vero? È assolutamente vero, perché i telegiornali degli ultimi anni si sono tutti molto appiattiti su una specie di format unico, come dicevamo prima, quasi indistinguibili. Bisogna, secondo me, ricominciare, come dice Di Pollina, a giocare seriamente con questo genere, che è uno di quei generi che poi rende sensato fare questo mestiere. Quindi io sono molto grato a Di Pollina che ha capito questo, così come sono molto grato a Aldo Grasso, che nel passato è stato anche severo con me, ma che anche lui, fin dal titolo, nella sua recensione, ha detto: il primo telegiornale divulgativo è un fatto importante nella storia della televisione. Sperimentare fa bene. E appuntamento quindi col TG4. Ciao. Di Alessandro Cecchi Paone, a presto. Oh, tutti i giorni, per dare il senso che appunto è il TG, cioè mai in vacanza. Io sono 7 giorni su 7 qua. Beh, ragazzi, cioè, una maratona, non lo so, non lo so come fanno. Ecco, ciao, ecco come grazie. Grazie, a presto Alessandro. Ecco come si fa a essere conduttori di un grande TG. Facciamo tutti i giorni YouTube, tutti i giorni, io e te, tu e io. Ci vediamo dopo 2 settimane. Christian, vabbè. Tutti insieme. Piccola pausa e ci troviamo ancora tra poco. Con sempre un grande ospite. Anche due grandi ospiti, a tra poco. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. YouTube. Non sono più capace di innamorarmi e di fare l'amore, ma ho un disperato bisogno di sesso che devo sfogare con te, con lei, con lui, da me. C'è un gran disordine fuori e dentro me. Nella mia mente c'è questo tarlo che distrugge l'amore. Non riesco a ucciderlo e lui si nutre anche del mio dolore. Chissà se avete riconosciuto questa voce, quella di un amico di RadioTube. Noi non l'abbiamo, dirmi che c'è. Ce l'abbiamo, perché quando lui si lancia in nuove avventure, noi lo dobbiamo chiamare, dobbiamo averlo con noi e tra noi. Pupo, ce l'abbiamo, ciao, in diretta con noi. Che meraviglia. Ciao. Porno contro amore, il tuo nuovo singolo con tanto di video diretto da Giuseppe Cruciani, con Giuseppe Cruciani protagonista. Diretto e soprattutto. Questo è il top, siamo al top. Enzo, una nuova avventura. L'ultima volta che ci siamo sentiti, che sei stato con noi a RadioTube, avevi un'avventura televisiva un po' matta. Mille vite di Pupo. Sì. Adesso una nuova avventura discografica dopo un bel po' di anni. Com'è tornare ad avere nelle mani un disco? Io ce l'ho qui con me. Com'è averlo nelle mani un disco? Direi che questa è l'espressione più, diciamo, che mi mette più a nudo, l'espressione più vera della mia di ciò che posso fare in virtù delle mie attività, perché le canzoni, tutto questo è qualcosa di troppo intimo. E il Porno contro amore è davvero il disco della mia, della chiusura del cerchio in cui io mi sono rivelato totalmente. È un disco in cui tu ti sei raccontato, hai raccontato anche delle cose molto intime, molto difficili, ma anche un disco che tu hai detto l'ultimo di inediti. Sì, ho questo tipo di rispetto verso questo lavoro, forse c'è anche un po' di rabbia in questo che dico, perché, come dire, attenzione, questo sarà il mio ultimo disco e voi dovete per forza, non dico comprarlo, ma almeno ascoltarlo, dedicargli un attimo del vostro tempo, perché potrebbe in qualche modo a qualcuno essere anche d'aiuto, perché c'è molta gente che in questi momenti sta vivendo dei dramma di dipendenze, magari di problematiche, non vede una via d'uscita. In questo disco c'è il racconto del percorso difficile, della sofferenza, di come un uomo può uscire dalle proprie compulsività e patologie e ritornare ad essere vincente. Questo c'è in questo disco. Quindi in questo senso ho voluto dargli anche l'importanza dell'ultima opera. In effetti c'è una voce molto in forma e molto vera. Però io ho una curiosità, ma perché contro? Perché porno contro amore? Non si può conciliare? Sì, si può conciliare tutto. Ma il sesso con l'amore si può conciliare sempre. La pornografia è un pochino più difficile. Direi che la pornografia va presa in dosi un po' più piccole, infinitesimali, un po' come la cura omeopatica, che usa il veleno per curare le stesse malattie che il veleno poi causa. Diciamo che la pornografia va usata, ma con molta parsimonia, un po' come tutte le cose che sono a disposizione delle persone oggi, che purtroppo sono devastanti quando non sono usate bene. Mi piace molto questa visione. Sì, il vizio come con il ruolo omeopatico, sì, bellissimo. Sì, senza lasciarsi travolgere. Una cosa che io... Sì, dimmi Enzo. No, perché io stesso con i miei amori, perché io li chiamo amori, perché se poi qui si può molto anche disquisire sul concetto di amore, ma per me l'amore è una sorta di compromesso con la sofferenza, con una ricerca di un equilibrio, e io stesso cerco anche ogni tanto qualche dose di pornografia. Una cosa che io adoro, forse la cosa che adoro di più di Enzo Ghinazzi, cioè di Pupo, è che lui è l'essenza del pop nella musica, ma ha avuto la vita più rock di tutti. Cioè non ci sono personaggi che abbiano fatto rock in Italia che abbiano avuto una vita come la tua. Ma questo non lo so, questa detta da me brutta, come dire. Però... Io ho avuto una vita particolare, quello è vero. Una vita molto sopra le righe. Non è che voglio entrare nel merito di chi è stato più pop o più rock. Io ho questa vita, la mia vita è sicuramente un percorso emozionante, un percorso artistico, come una canzone, come un libro, come un film, e non è una vita normale, quello sì. Poi se questo è rock non lo so. Sai, Daniele, che Pupo nella sua vita ha perso tutto e poco a poco ha recuperato tutto. È un messaggio di forza, anche di, scusa se uso questa parola un po' pesante, però anche un po' di redenzione. Sì, io cerco il perché di questo da sempre, cioè perché di questo vuol dire cercare Dio da sempre. Non l'ho ancora trovato, non ci siamo dati appuntamenti poi mancati per qualche minuto, e ho voluto fare anche quelle cose squallide, un po' fuori da quelle che sono le convenzioni, anche dalla convenienza commerciale, quella di ricomprare ad esempio un albergo che era in qualche modo fatiscente e che però mi apparteneva a livello morale, e io l'ho fatto senza sapere cosa ne farò in seguito. C'è in questo mio modo di vivere un insieme di contrasti anche interiori che però fanno parte della miseria umana, e io sono una miseria umana vivente che però in qualche modo ce l'ha fatta. Ma c'è un elemento molto bello, perché un artista non può avere una vita normale. Il termine artista è troppo abusato ultimamente, quindi e poi quello che ci accade nella vita molte volte dipende dalle coincidenze. Quando mi dicono, ma come fai a vivere con due donne da 27 anni? se sei onesto dici che non lo sai, che non è accaduto perché strategicamente è stato programmato. Alla mia età, io vivo da 40, più di 40 anni in questo mondo, ho vissuto esperienze di tutti i generi, cioè ormai una certa età, quindi non me la sento più di essere disonesto con me stesso e con le persone che mi seguono. Più volentieri tendo a minimizzare, a sfoltire, a dire guarda, può accadere a tutti, attenzione che vi capita, vi può capitare, credeteci, ecco, capito? E sono coincidenze, ecco. Enzo, tu vieni da un posto molto bello e molto particolare che si chiama Ponticino, che è in realtà Ponticino, che in realtà è una frazione, possiamo dire, di Laterina, no? Provincia di Arezzo. È una frazione di Laterina che è diventata, suo malgrado, molto fortuna, famosa per Maria Elena. Ultimamente si parla. Vi conoscete? Ma conosco sua famiglia, lei meno perché potrebbe essere mia figlia. Devo dire che ha molta simpatia, molto rispetto per questa ragazzina che è riuscita a diventare quello che è oggi. Devo dire che è affascinante. Sì, devo dire che in questo periodo Arezzo, nel bene o nel male, è un posto... La Toscana in genere, è il periodo del... Allora, certo. Guardate, vi dico, la Banca Popolare dell'Etruria, che di popolare oggi c'ha ben poco, nel senso che popolare per se dice... No, però è quella che a un certo momento è stata la prima che mi ha salvato, ecco, come ha distrutto molte persone, ha distrutto i loro risparmi in virtù di inganni fatti da alcuni dipendenti di questo istituto. Io invece sono stato salvato dalla Banca Popolare dell'Etruria. Pensa, un caso quasi unico, è la prima volta che lo dico, ma lo voglio dire perché la mia città, Arezzo, è una città meravigliosa che ha bisogno di recuperare credibilità e in un certo senso appeal, perché non è una città di delinquenti, di gentaglia che ruba, è una città di persone anche che in qualche modo si aiuta a vicenda. Certo, allora, certo. Per salutarti voglio far sentire un altro pezzettino. Vai. Di Porno contro amore, anche perché è legato ad Arezzo, ecco perché. È vero. Non odiarmi se non ci sarò, a cullarti quando partirai, ti conosco e mi accorgo che non hai voglia di rispondere. Tutte le stelle a volte cadono per noi. Allora, questa è Non odiarmi, che è una delle tracce di Porno contro amore, appunto il nuovo CD di Pupo. E a me piace molto perché io l'ho scritto su Twitter, insomma, molto riso, perché è proprio uno di quei pezzi che fanno maglioncino sulle spalle, autan, delle sere un po' del passato, no? Pronti per l'estate. Per l'estate. Ma poi è la sintonia fra due ragazzi, scusa se mi do del ragazzo, un ragazzo di 61 anni e un ragazzo, un 25enne come il Cile, Aretini, che si incontrano e decidono di abbracciarsi e artisticamente di fare una cosa insieme. Arezzo è questa, il Pupo e il Cile. E il Cile, che appunto, lui con tutti i suoi tatuaggi, ha scritto due pezzi per Pupo nel disco, è carino, mi piace. Molto bene. Ma sai che il Cile era figlio di un mio amico che vendeva gli strumenti musicali nel negozio si chiamava il Vieri di Arezzo, dove io compravo gli strumenti e pagavo a rate quando ero un ragazzino, perché chiaramente non avevo un soldo. L'Italia è fatta così. Ma la vita è meravigliosa, ragazzi. Ma noi dobbiamo ricordarci sempre di veramente di essere felici, di gioire, di essere vivi. Ma sei l'ultimo degli inediti, quindi dopo cosa si fa, Pupo? Come dici? In futuro che cosa si fa se questo è l'ultimo disco di inediti? Cosa fai? Torni in TV? Non lo so. Farò tante cose, ma sempre cose che ho deciso da oggi in poi veramente di essere completamente libero e sciolto. E questo è una grande conquista, davvero. Ma l'ho sempre quasi fatto, ogni tanto qualche compromessino. Però, chiaramente, nel rispetto degli altri, perché non mi permetterei mai di offendere le personalità, i lavori altrui, ma magari dire quello che penso, sì, quello sì. Sì, che bello, abbiamo avuto Enzo Ghinazzi. La prossima volta però ti aspettiamo in studio. In studio, così parliamo più a lungo. Dai, ci facciamo una chiacchieratona. Del Crociani regista. Sì, quando volete, ragazzi. Portiamo in studio anche Giuseppe. Ciao. Un abbraccio, anche a Giuseppe, presto. Ciao. Che però, bello, però, che bello. Scusa, la prossima volta due note di Su di noi me le potevi anche ma me. Sì, no, capisco che dobbiamo parlare del disco nuovo, però la prossima volta Su di noi. La prossima volta te ne facciamo, te la facciamo cantare in diretta. E adesso Traffico. Traffico, poi tra poco l'ultimo pezzettino del nostro radio. Radio Tube. Come passa il tempo quando ci si diverte, vedi? È così, al volo, al io volo. Io però questo volo, siccome vola, saltiamo l'ultimo blocco, perché io non voglio parlare dell'Isola dei Famosi. Eravamo riusciti finora a non parlarne. Ma noi che parliamo, ma poi di quello che fa rumore, che fa discutere in rete. Ma non fa discutere, poi c'è una persona che io leggo che mi racconta tutto quello che succede in anticipo, quindi non parliamo. Parliamo per ordine. Io lunedì sera ero sul mio divano che guardavo l'Isola dei Famosi. Ecco. E Daniele Bellasio mi manda una mail dicendo: ah, guarda l'isola. Poi ho scoperto che lui non la stava guardando, ma diceva a me di guardare l'isola. No, perché stavo leggendo. Ah, certo. È tutto, cioè, un cortocircuito, esatto, mediatico. Lui la stava guardando e mi dice: guarda l'isola. Sì. Allora io la guardo. E mi sono a un certo punto, ma non spaventata. Sì, no, quello è vero. Ma mi sono spaventata chi fosse stato su Marte questa settimana, perché gli altri ne hanno sentito assolutamente parlare. Dopo Panama Papers, questa era la notizia, esatto, proprio. Dopo Panama Papers e dopo il Guatemala, l'Honduras. Sì, sì. Ecco cosa è successo. Vai. In Honduras. Adesso è in difficoltà Alvin, però io spero che esca subito. Devo dire che comunque hanno già... Alvin, sta un po' tutto qua. Alvin, entrate. Alvin, non è ancora Alvin... spuntata. Fanno uscire io. Allora, adesso uno... che la guarda sa cos'è successo, fa un po' l'effetto di Ciro Ciro, perché insomma adesso lei semplicemente, Mercedes Enger, stava facendo questa prova di apnea e riusciva sott'acqua, a stare sott'acqua, però e non voleva uscire, non poi voleva, si è capito, uscire, che non voleva proprio lei, si arrabbiata. Però ragazzi, veramente Alvin, il panico, Alvin, perché sì. Ovviamente la Marcuzzi chiamava Alvin, che è il conduttore chi che è Alvin? Lì. Esatto, io volevo chiedere chi è Alvin? È il conduttore che è lì in Honduras. Alvin è un conduttore famoso. Famosissimo, co-conduttore, certo, della Marcuzzi. No, è co-conduttore a distanza, potrei mandare te in Honduras. Pensa che bello, okay. Io qua e te in Honduras. Comunque sì, in spiaggia. O viceversa anche. Secondo me la di 24 quasi preferisco. Forse sì, non forse lo so. Sì. Non vabbè, lo vediamo. So. Comunque, tutto questo perché è stato il momento in cui abbiamo, io ho avuto un'ansia, ragazzi. Twitter è impazzito in quel Alvin, momento. Tutti scrivevano Alvin, io non capivo. Alvin, vabbè. Vabbè, comunque, Twitter è impazzito lì. Era impazzito prima perché l'avventura ha fatto la lotta nel fango, cioè era successo però un po' di tutto, sì. Però. E poi a un certo punto Twitter è impazzito anche con l'eliminazione dell'avventura. Ma noi lo sapevamo già. Che non veniva eliminata. No, no, sapevamo già tutto. Che le danno. Ma sapevamo già tutto. Allora, perché alle 22. Su Facebook, perché ogni tanto uso anche Facebook, sì, mi appare il post di Alberto Dandolo, autore, giornalista, firma di Dagospia, di Oggi, ne fa di ogni, scrive ore 22. Sì. Anticipazioni, cioè prima. Sì, sì, anticipazioni Isola Gossip. Allora, news sull'isola: resta lo spagnolo Jonas, Simona perderà con lui al televoto, ma l'avventurona andrà a Playa Soledad. Non sarà sottoposta a televoto, se no perde, perché faranno uscire Aristide fingendolo malatissimo. Con una semplicità incredibile ti ha anticipato, perché poi è andata così. Ma tutto. Vedi? E quindi secondo me ha delle doti medianiche, assolutamente, perché secondo me prevede il futuro. Lo chiediamo direttamente a lui, Alberto Dandolo. Ciao Alberto. Buon pomeriggio, buon sabato, ciao ragazzi. Ciao. Alberto, ciao. Allora, doti medianiche? No. Infatti ora mi chiamano Dandolange, come Solange. Certo, Dandolange. Ma tutti Dandolange. Chi vince il campionato? Magari no, anche per tre numeri. Esatto, no, ma anche perché poi ovviamente qualcuno il tuo post su Facebook ha fatto ovviamente il giro della rete ma sì, anche il giro dei giornali tradizionali, sì, che l'hanno ripreso, sì, e qualcuno aveva arguito che tu dicessi che il televoto era truccato, invece tu hai detto no, il televoto è verissimo, però tu sapevi già tutto. No, il televoto è assolutamente vero, altrimenti Simona l'avrebbero fatta andare al televoto col povero egittologo sulla spiaggia. Povero solitaria. Mio amico Aristide, caro. Avrebbe perso, perché in realtà il pubblico, il godimento del pubblico pubblico era vederla fuori, assolutamente. Simona è il personaggio più controverso e anzi gode nel vederla non star bene. Però in realtà non era nessuna previsione, io sapevo esattamente quello che sarebbe accaduto perché fonti importanti me l'avevano anticipato. E questo ci fa capire, però questo ci fa capire che... Devo fare la domanda, ecco. Quindi c'è una sceneggiatura scritta? Certo, certo. Cioè, il programma secondo me dovrebbe anche essere scritto meglio, nel senso che hanno avuto delle grosse falle, secondo me, i super pagati autori del programma. Però è ovvio che perdere Simona significava far finire inevitabilmente il programma, perché era tutto ruota intorno a lei. C'è qualche cattivello prima in redazione ci ha detto, anche perché è l'unica famosa? Certo, ma tu mi trovi un famoso oltre, vabbè, Marco Carta per Fiordaliso per diciamo un po' gli anziani, non vedo altri personaggi noti. Io faccio gossip avevo difficoltà a riconoscere. Anche perché poi lei, essendo stata la conduttrice, c'è anche sto gioco di specchio, no? Con la Marcuzzi. Ma è anche un po' la metafora della penisola, l'isola, nel senso che è la goduria di veder vincere lo sfigato e far perdere il vincente o presunto tale. Infatti vanno avanti quelli che non hanno curriculum, ecco. Certo. Come in Italia, esattamente. Ma perché secondo te questo non lo so, cosa è successo nei confronti di Simona Ventura? Se c'è risentimento, cioè, cosa succede? Più che risentimento c'è un sadismo che è quello tipico anche delle persone che guardano la televisione, ma anche del nostro popolo. La goduria del veder massacrata e punire una persona che nella vita in fondo ha avuto tutto e che in un momento di difficoltà fa un passo indietro e si rimette in gioco. Io personalmente ho anche, tra virgolette, apprezzato, no? Questo rimettersi in discussione di Simona, anche se poi l'ultima immagine di lei che si lavanava nel fango con la figlia della Eva Enger, 24enne, era veramente la metafora di quello che uno non dovrebbe essere, cioè arrivare all'autoflagellazione pur di apparire. Ecco, sì, ma devo dire, la lotta nel fango è stato un altro momento. Stare. Ci sono anche aspetti, diciamo. Sono estimatori. Quindi, però, mi interessava questo aspetto. Quindi, diciamo, partecipare all'isola è un passo indietro per chi fa parte dello Star System. Per Simona è stato, secondo me, proprio un percorso espiatorio pur di tornare a condurre un programma televisivo. Nel senso che è quello che si dice nell'ambiente, che la partecipazione all'isola quest'anno è legata poi a un futuro contratto e a una conduzione di un programma televisivo, quindi lei lo ha fatto con un obiettivo. Per i non famosi è un punto di partenza, no? Perché infatti è l'isola dei non famosi o dei semi famosi. Mm-hmm. Io penso che i famosi veri infatti hanno avuto difficoltà, non ci vanno, uno perché hanno tutto da perdere, due perché ci sono pochi soldi, diciamoci la verità. E sono andati tutti all'avventura come hai scritto tu. Sì, però si è fatto un bel mezzo biglioncino, fa bene Simona Ventura, ma ragazzi, se tutto lecito è il mercato. Ma perché no? Ma invece la conduzione della Marcuzzi, ho letto da qualche parte, è stata un po' criticata. Te piace? A me la Marcuzzi no, la Marcuzzi a me piaceva moltissimo quando faceva Fuego, Colpo di Fulmine, Festival Bar. Alessia è anche molto brava, secondo me, nel Grande Fratello, perché è tutto molto ben scritto e più scritto che l'Isola dei Famosi, e sono pochi gli imprevisti che deve affrontare. La grande difficoltà, per quanto mi riguarda da spettatore, e da giornalista che si occupa di televisione, è il fatto che è incapace totalmente di gestire l'imprevisto. Cioè non riesce, secondo me, ma questo è un fatto caratteriale, perché lei è una un po' ingenuona, una brava ragazza, una che magari non ha grande senso d'osservazione, no? Rispetto a quello che le accade attorno. Per cui se c'era lì, che ne so, o l'Avenire o l'Avventura con alcuni spunti che poteva avere dei concorrenti, ci avrebbero fatto 10 puntate su due parole. Alessia invece non coglie, come dire, la possibilità di continuare a creare la trasmissione su dei dettagli che invece una conduttrice brava dovrebbe assolutamente percepire. Io conosco una conduttrice bravissima sugli imprevisti, della radio, ma anche in televisione se la caverebbe proprio. Ne bravissima. Ne potrai raccontare. Sei imprevisti soprattutto dei colleghi, tra l'altro, neanche dei concorrenti. Se questi muri potessero parlare. Apriamo una petizione, la faccio io sulla mia pagina Facebook. No. Alberto, senti, ti vogliamo ancora ospite RadioTube, sì, perché ti farò raccontare cosa succede ogni volta che tu pubblichi i gossip senza nomi su Dagospia, perché poi succede di tutto dopo. Molto bene. Grazie ad Alberto, grazie Dandolo per essere stato con noi. Grazie. Ciao. Grazie. Io non gli ho chiesto altre anticipazioni perché voglio lasciare secondo me lui sa già tutto fino alla fine dell'isola. Chi vince il campionato, sa tutto. Ma il tempo è volato? Volato. Se volete ascoltare questa brava conduttrice con gli imprevisti, alle 15 sabato prossimo. Saremo in trasferta sabato prossimo. Sì, da un salone. Saremo finissimo. In trasferta sabato prossimo. Ringraziamo Paolo Corleoni in regia. Ringraziamo Cristian Goldoni in redazione. Sempre pazienti. Noi ci ritroviamo sabato prossimo. Ciao.